Il cacciatore di libri di Alessandra Tedesco. Oggi siamo in compagnia di Giorgio Manacorda, autore de Il corridoio di legno, pubblicato da Voland. Sicuramente conoscete Manacorda come poeta, lui anche docente universitario, saggista, ha scritto appunto anche sia saggi che libri di poesia. Questa volta però si diletta con il primo romanzo. Allora Manacorda, innanzitutto questa curiosità, come mai un romanzo a questo punto della sua carriera? Non lo so, in realtà non lo so. Posso dire che a un certo punto, davvero non so perché, ma ho cominciato a provare a scrivere narrativa. Forse ci provano tutti a un certo punto, quelli che scrivono. E cioè, anche lei ha il famoso romanzo nel cassetto, come tutti quanti? Nel cassetto no, perché ci ho messo talmente tanto tempo a scriverlo che forse nel cassetto sarebbe direttamente ammuffito. E la verità è che ci ho messo tantissimi anni lasciandolo, perdendolo, dicendo ma non sono capace, l'ho lasciato perdere. E poi non so come a un certo punto è arrivato a maturazione e quindi eccolo qua. C'è però una forma di poesia in questo libro, nel senso che a un certo punto diventa un romanzo epistolare. Ci sono queste lettere, poi spieghiamo rapidamente la trama. Ci sono appunto delle lettere. Questo è un modo per mantenere appunto un contatto con un linguaggio diverso rispetto a quello del romanzo? Ma no, direi di no, nel senso che la forma epistolare è una forma romanzesca almeno dal Settecento e quindi diciamo che la domanda mi è già stata fatta e io ho pensato che forse l'inserto di lettere nel mezzo del libro magari viene da una mia antica passione, e cioè la mia tesi, addirittura la mia tesi di laurea sui dolori del giovane Werther di Goethe. Forse è rimasta questa cosa da qualche parte. E quindi ci ha riproposto un romanzo epistolare, che in parte è epistolare, perché allora a questo punto veniamo rapidamente alla trama. C'è un uomo, un poliziotto, che decide di ritornare a Berlino, dove ha frequentato da ragazzo un collegio, perché vuole capire le ragioni che hanno portato un suo vecchio amico di collegio, Andrea, a compiere determinate azioni. Allora, innanzitutto c'è l'ambientazione di questo collegio, che fa veramente paura, insomma, per la severità e anche per la violenza che c'era in questo collegio, che credo sia poi comune a tanti luoghi del genere. Beh, una volta si chiamavano istituzioni totali, no? Cioè, anche se non era, diciamo che la descrizione del collegio è dura soprattutto nei rapporti fra i ragazzi. Diciamo, si creano immediatamente momenti di gerarchie interne, sadismi, l'esercizio della violenza, stratificazioni, che sono una specie di microcosmo che poi, consapevolmente o meno, anzi inconsapevolmente, vengono portate nel mondo più grande, il quale poi non funziona in modo diverso, come sappiamo, no? In questo collegio appunto si incontrano questi due ragazzi, quello che appunto diventerà poliziotto e Andrea. Possiamo un po' descriverli brevemente? Beh, Andrea è, diciamo, il poliziotto è il narratore. È il narratore, poi alla fine si scopre il nome. Alla fine si scoprirà il nome, ma è il narratore. E Andrea è in realtà il protagonista ed è un ragazzo malato, asmatico, almeno all'inizio, ed è l'intellettuale, insomma, della situazione. Non è l'unico, ovviamente, ce n'è anche un altro ancora più, dal punto di vista intellettuale, più importante in qualche modo, ma che scompare presto di scena. In realtà lui è il giovane intellettuale e che poi si trova coinvolto, giunto in Italia, in una situazione appunto di violenza armata. E in realtà si tratta di due fratelli, cioè il fratello Silvestro, che poi invece è quello, è il politico, è il leader in qualche modo. E tra i due fratelli c'è un rapporto molto complesso. In realtà Andrea abbandona l'Italia, arrivati nella fase calda della vicenda, diciamo politico-sociale. Mm-hmm. Invece Silvestro rimane e diventa un personaggio molto, molto importante. Diciamo anche che Andrea, quando appunto era in collegio, era giovane, era quello che subiva un po' tutti i soprusi anche dei suoi compagni, e poi appunto a un certo punto della sua vita decide di andare alla ricerca di questo fratello Silvestro, e a questo punto si arriva al contesto italiano e il contesto della lotta armata degli anni 70, che però lei descrive in modo diverso, nel senso che non è esattamente come sono andate le cose dal punto di vista storico. Che tipo d'Italia si immagina in questo romanzo? Per fortuna non sono andate. No, per fortuna, decisamente. Non sono andate come le descrivo. Cioè, ha fatto un gioco, se fosse, sì, se avesse vinto la lotta armata. Sì. Se avesse vinto la reazione alla lotta armata. Diciamo che c'è uno scenario, se qualcuno se lo ricorda, per i più giovani forse no, ma la Grecia dei colonnelli, insomma, o comunque uno scenario sudamericano. Una dittatura, di fatto una dittatura. Con le milizie armate. Sì, quindi è un po' è controfattuale, no? È andato contro i fatti per fortuna appunto. No? E perché? Ma io devo dire, quando l'ho scritto non sapevo bene perché, forse una spiegazione possibile è questa. In realtà, per passare alla lotta armata, e uno della mia generazione il problema se l'è posto, per passare alla lotta armata tu devi essere convinto che non c'è la democrazia e quindi devi intervenire in modo estremo. Questo era quello che pensavano i terroristi, cioè il loro sogno l'ho messo in scena. Certo, i terroristi ovviamente pensavano di essere nel giusto proprio perché combattevano una situazione di ingiustizia, ma leggendo il suo libro si possono, secondo lei, comprendere le ragioni del terrorismo oppure le ragioni che hanno spinto un giovane di quell'epoca a darsi alla lotta armata? No, in realtà non c'è mai possibile nessuna comprensione per il passaggio alla violenza armata, no, la risposta non può che essere negativa. Il libro non è comprensivo in nessun modo della lotta armata, ma non è neanche quello il problema in realtà. E molti hanno parlato di questo libro come se fosse un libro sul terrorismo. Non è un libro sul terrorismo, è un libro sulle ragioni profonde, diciamo quasi ancestrali, certamente antropologiche, come nasce la violenza in un contesto sociale piccolo, perché non è niente altro che il microcosmo del macrocosmo, cioè della società più grande e della storia. Tant'è vero che la storia non c'è in questo libro. Se ci fosse la storia si potrebbe parlare di terrorismo, la storia non c'è. Non vi aspettate gli anni 70, non ci sono. E grazie a Giorgio Manacorda, che con Il corridoio di legno, pubblicato da Voland, è tra l'altro uno dei 12 finalisti del premio Strega. A questo proposito vi ricordo che il 13 giugno ci sarà la prima votazione degli Amici della Domenica, che selezioneranno una cinquina. La scelta finale del vincitore dello Strega avverrà il 5 luglio a Roma, e Radio 24 seguirà le varie tappe. Prima di chiudere vi ricordo ancora che da mercoledì 30 maggio è in vendita con Il Sole 24 Ore Il Caffè Letterario, 25 DVD nei quali gli scrittori di oggi raccontano i grandi della letteratura. E così abbiamo fra gli altri Tabucchi che racconta Cervantes, Dacia Maraini Flaubert e Camilleri che racconta Simenon. Anche per oggi è tutto, un saluto da Alessandra Tedesco.